l'ambreana, saluta voi come vai. Non capisco più niente, m'ho aiutato a muovere a fare delle cose che faceva ieri di manna sarranna. Segnala che passa nei tempatini che sta fanna. Fanno troppe cose, riduce l'uomo in crisi. Che ieri sorrideva, oggi te ne cruciosa. Rimani va con coppa e salirò più su del cielo. Affanni dimenticherà chi oggi è teso vero. Straniero nella mia nazione, non voglio essere più. I miei giudici domani avranno i pollici all'infù. Guardo indietro la mia vita, sorrido da soddisfatto. Un buon lavoro, una moglie, soliti figli, cane e gatto. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. E domani vorrei scoprire le mie virtù. Vorrei fare di tutto per non penare mai più. Vorrei avere la chance ma non per andare in TV. Non anelo a reality, voglio andare più su. Vorrei svegliarmi domani in un mondo diverso, dove il sole splenda nel blu di un bel cielo terzo, dove ogni essere umano non pensi solo a se stesso. Non so te, ma vorrei che domani fosse diverso. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Dipendesse da me, sarei sempre con te. Sarei solo con la donna che mi fa stare da re. Ma il domani è diverso, è questo quello che vedo. Il domani saprà negarmi quello che chiedo. Chiedo per me che la musica conti qualcosa e trovare una lei che sia mia giusta sposa. Una famiglia dei figli durante il mio cammino. Vorrei avere domani che amo stretto vicino. Dandighi, storia per pizze e fighi. Sperando in un domani diverso parlo su un CD. Cado in un pensiero che mi spinge a mattini. Morire dopo vita tranquilla, voglio sti tipi. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Domani vorremmo i nipoti realizzati e felici e vorrei sogno meglio per tutti i miei amici. Ad i miei genitori poter stare vicino, ma devo alzarmi domani, iniziare questo cammino. Oggi è solo una lotta, il mondo è solo una guerra. Non interessa a nessuno migliorare la terra. Solo dittatore infestare il nostro pianeta. Spero domani arrivi qualcuno con qualche idea più concreta. Ahmadinejad si preoccupa di vietare la mia musica. È morale per lui chi sveglia l'opinione pubblica. Lui che ha morale per come detiene il potere. Guadagni nero petrolio e minaccia nucleare. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti i figli tuoi. Domani guarderemo ogni problema da lontano e ridendo del passato con la mano aiuteremo ogni fratello che è rimasto dietro a noi. Pace va per tutti.